Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, avevamo un appuntamento, eccoci insieme. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, un ringraziamento a Filippo Aureggi, regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Partiamo. Pressione, perché sale e come tenerla sotto controllo. Quanti amici hai su Facebook? Bistecca, come evitare l'effetto suola di scarpa. Pressione arteriosa. Non c'è puntata in cui non venga nominata. Oggi diventa protagonista assoluta della nostra puntata. Direi che se lo merita. I motivi sono tanti. Primo, la sua grande diffusione, dal momento che colpisce più del 25% della popolazione. Secondo è che rimane il fattore di rischio cardiovascolare più importante. Il terzo motivo è che spesso chi soffre di ipertensione, pur avendo a disposizione terapie efficaci, non viene curato adeguatamente. Il quarto è, poi mi fermo e vi presento gli ospiti di oggi, è che c'è ancora un sommerso importante, cioè persone che sono ipertese ma che non sanno di esserlo. Quindi, se siete ipertesi, chiamateci, raccontateci se e come siete curati, se la terapia funziona, se vi sentite bene, ma chiamateci anche se la vostra pressione non la conoscete. Non siamo in grado naturalmente di misurarla in diretta, ma abbiamo dei buoni motivi per convincerli a misurarla e magari scoprire che è perfetta. Insieme a noi oggi in studio il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo. Professor Remuzzi, sono molto contenta. Grazie, anch'io. Buongiorno. In linea abbiamo il professor Mancia, ordinario di medicina presso l'Università di Milano Bicocca. Professor Mancia, bentornato, grazie. Grazie, buongiorno. Professore Mancia, iniziamo a dare qualche numero. In realtà ne bastano due, quello della massima e quello della minima. E già che ci siamo, professore, ci spieghi perché la pressione arteriosa ha queste due misurazioni e quale delle due è più importante? Ah, entrambe rappresentano un fenomeno necessario alla vita, perché garantiscono il gradiente idraulico per nutrire i tessuti, ma nello stesso tempo anche un trauma per le grandi arterie, per cui questo trauma facilita l'aterosclerosi e quindi tutte le complicanze legate all'aterosclerosi. Entrambe sono importanti, tutte e due direi nei dati grandi della popolazione sono importanti in maniera simile. Si può forse dire che nel paziente anziano la pressione massima è un fattore di predizione degli eventi cardiovascolari più importante della minima. Professor Remuzzi, siamo bene o male tutti rassegnati all'idea che con gli anni i valori della pressione aumentino, ma ci sono anche giovani con la pressione alta, quindi non è solo un problema degli anni che passano, c'è dell'altro. Che cosa, professor Remuzzi, perché la pressione sale? Sì, bambini e giovani è raro che abbiano la pressione alta, però succede. Le complicazioni della pressione alta possono essere ancora più preoccupanti nei bambini e nei giovani, perché se uno incomincia presto ad avere la pressione alta ce l'ha per un periodo più lungo, e quindi il danno a cui faceva riferimento il professor Mancia alle arterie c'è per un periodo più lungo. Allora bisogna sfatare l'idea, per esempio, di non misurare la pressione nei bambini. È stato fatto uno studio in Inghilterra: quando il bambino va dal pediatra, quanti su 100 misurano la pressione? 9 su 100, è troppo poco. La pressione va misurata perché i bambini possono avere una storia familiare che predispone all'ipertensione, quindi almeno una volta è bene provare la pressione quando si va dal pediatra. Possono avere una storia familiare, quindi avere dei geni che predispongono all'ipertensione. E poi oggi ci sono anche dei fattori di rischio, quelli che definiscono la probabilità di sviluppare poi più avanti una certa malattia, e cioè i bambini mangiano troppo tanto, mangiano delle volte dei cibi non particolarmente sani, si muovono poco, tutte cose che possono predisporre alla pressione alta anche nei giovani, che poi possono avere dei guai più avanti. E ci sono delle forme cosiddette secondarie, cioè delle malattie che si scoprono in giovane età che portano all'ipertensione. Un sms di Antonio: proprio ieri sono andato dal medico e mi ha misurato la pressione, 90 di minima, 150 la massima. L'ho riprovata una seconda e una terza volta, in piedi e seduto, sempre alta. Stamattina sono andata dal farmacista, la pressione è perfetta, 90-120, a chi devo credere? Ho 38 anni, fumo 10 sigarette al giorno, non sono in sovrappeso, sono sempre stato bene. Professor Mancia, cosa possiamo dire ad Antonio? Una rondine non fa prima vera o... Ma anche una pressione alta casuale può indicare un rischio che comunque non è normale, però è buona regola diagnosticare l'ipertensione sulla base di misure ripetute in più visite mediche. Uno degli errori che viene fatto, purtroppo non infrequentemente, è quello di affrettarsi a dare una terapia sulla base di una o di pochi valori di pressione, con il risultato che il medico non ha anche informazioni sufficienti su quali siano i valori di pressione prima dell'inizio della terapia e quindi se la terapia ha ridotto o non ha ridotto la pressione. Le linee guida internazionali sull'ipertensione arteriosa insistono sul fatto che la diagnosi dovrebbe essere basata su più misure fatte nel corso di più visite spaziate di settimane o di mesi, a meno che il paziente non sia palesemente un paziente ad alto rischio con dei danni d'organo dettati in maniera assolutamente incontrovertibile, dovuti in maniera assolutamente incontrovertibile all'ipertensione, allora in questo caso la diagnosi si impone da sé. Allora restate se i valori della vostra pressione sono alti, restate anche se la pressione non l'avete misurata. Il professor Remuzzi ha detto prima dovrebbe essere misurata anche ai bambini, ma professor Remuzzi, noi sappiamo che c'è un grande sommerso, ipertesi che non sanno di esserlo. A partire da che età? Abbiamo detto i bambini, e poi se i bambini non l'hanno ancora fatto rivolgiamoci anche ai giovani che proprio alla pressione solitamente non ci pensano. Chi dovrebbe farlo? Tutti o e chi in particolare? Ma anche i pediatri dovrebbero misurare la pressione ai bambini quando i bambini vanno dal medico in un'occasione, almeno una volta nella vita di un bambino la pressione andrebbe provata. C'è anche un problema tecnico, è un po' più difficile provare la pressione nei bambini, il braccino è piccolo, ci vogliono degli apparecchi particolari. E quindi questa è una cosa che le mamme dovrebbero chiedere ai loro pediatri di fare almeno una volta. Abbiamo l'idea che siamo noi che dobbiamo in un certo senso educare un po' il nostro medico in qualche campo, no? In questo caso io sono sicuro che le mamme saranno sollecite, lo vorranno fare, e poi certamente gli adulti, una volta si faceva la visita del militare, adesso il militare non si fa più, quando gli adolescenti, i giovani adulti, è bene certamente che provino la pressione almeno una volta. Non deve essere un'ossessione, però uno deve sapere che il suo bambino ha la pressione normale, e un ragazzo giovane deve sapere di avere la pressione normale, poi si vede nella vita, insomma. Allora, i numeri per parlare della vostra pressione oggi, il nostro numero verde 824 0024 è il numero anche dove potete inviare i messaggi che stanno già arrivando numerosi, che leggerò nel corso della trasmissione, 349 238 6666. Una mela al giorno. E voltiamo pagina, parliamo di Facebook. Per molte persone avere tanti amici su Facebook è diventato un vero e proprio vanto. Infatti più se ne hanno, più ci si sente gratificati. Ma averne troppi può diventare un problema. E quanto emerge da uno studio che arriva dall'Università di Oxford, che mette in guardia tutti gli appassionati ritenendo di aver individuato il numero perfetto di contatti online. Il cervello umano infatti è capace di gestire al massimo 150 amici. Ne parliamo oggi insieme al dottor Federico Tognoni, psichiatra e coordinatore dell'ambulatorio dedicato alla dipendenza da internet presso il Policlinico Gemelli di Roma. Dottor Tognoni, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Dottore, la prima cosa che viene in mente leggendo questo studio è che il nostro cervello fa differenza fra quantità e qualità. Sì, sicuramente questo è vero, anche se un conto è gestire dei contatti su internet, su Facebook, che poi alla fine è una grande vetrina più che un luogo di scambio autentico, un conto è vivere una relazione d'amicizia. Vivere una relazione d'amicizia è una cosa molto diversa, prevede la presenza, anche l'uso, l'interazione con il proprio corpo, che è il grande assente delle relazioni mediate dal web. Per cui gestire tanti contatti, il 100, 150, ora il numero preciso non lo riesco a immaginare, su Facebook può essere faticoso, può provocare una sorta di stress neurologico, ma sicuramente è una cosa diversa invece dal vivere una relazione di amicizia, che è una cosa molto diversa. Anche perché, dottor Tognoni, quando si comunica chattando si bada più al fare che al pensare. Esattamente, se io chatto con una persona, in ogni caso quando gli rispondo devo digitare, per cui esiste un po' una sorta di bilancia della nostra mente, che più cose facciamo e più è meno è facile nello stesso tempo pensare, per cui non c'è dubbio che una comunicazione che passa per il digitare dei pulsanti in una tastiera per forza di cose comporterà un decremento nei processi di mentalizzazione, di elaborazione, di astrazione, di immaginazione, proprio perché il digitare appartiene al campo del fare, non a quello del pensare. Dottor Tognoni, prima di salutarci, lasciamoci con un messaggio, un'indicazione concreta per i nostri ascoltatori, un po' sulla sorta di questa ricerca insegna che... Se io fossi, anzi, da papà oltre che da psichiatra, sarei preoccupato se avessi un figlio che rinuncia progressivamente alle relazioni dal vivo per gestire solo i propri contatti su Facebook, perché in futuro poi potrebbe avere problemi a rientrare in una vita normale. Grazie dottor Tognoni per essere stato con grazie noi. A voi. Buona grazie giornata. A voi. Arrivederci, arrivederci. Pronto soccorso. Ipertensione, questo è il tema di oggi, in pratica quando la pressione sale sopra i livelli di guardia, che sono, professor Mancia? Ma difficile se noi guardiamo dire. I grandi numeri, tanto più alta è la pressione, tanto maggiore il rischio, e quindi se madre natura ha dato valori di pressione bassa, l'individuo può considerarsi fortunato, ma per quel che riguarda la dimostrazione del beneficio che esiste riducendo la pressione, diciamo che nella popolazione generale degli ipertesi bisognerebbe cercare di scendere sotto i 140 mm di mercurio di massima e i 90 mm di mercurio di minima. Forse varrebbe la pena essere più aggressivi nei pazienti cosiddetti ad alto rischio, cioè che oltre ad avere l'ipertensione hanno una storia di infarto, una storia di ictus oppure altri fattori di rischio come il colesterolo alto o il diabete. Allora in questi casi varrebbe la pena scendere quanto più vicino possibile ai 130 mm di mercurio di massima e gli 80 forse anche sotto mm di mercurio di minima. Professor Mancia, al polso, in piedi, seduti dal medico, dal farmacista o dall'amico che ha l'apparecchietto? Qual è il modo migliore per misurare la pressione? Ma la classica e irrinunciabile misura rimane comunque la misura fatta dal medico in condizioni standardizzate, cioè dopo almeno 5 minuti di posizione seduta, in riposo e con almeno due misure, se non tre, in successione. Questi sono i valori di riferimento. Ciò non toglie che altri valori possono avere la loro importanza e dare delle informazioni utili. La misura dal farmacista può rappresentare un campanello d'allarme, non vale di per sé come indicazione all'intervento terapeutico, ma può ovviamente mettere sull'avviso il paziente sul fatto che c'è qualcosa che non va e quindi dovrebbe andare dal medico. E l'automisurazione del paziente a domicilio può essere estremamente utile, innanzitutto per coinvolgere il paziente nel successo della terapia, ma anche per dare un'idea di quali sono i valori più vicini alla vita quotidiana. E la stessa cosa può valere per la cosiddetta misura ambulatoria della pressione, cioè quella che viene fatta automaticamente ogni tot minuti nell'arco delle 24 ore. Ma queste misure non sono sostitutive di quelle del medico, sono aggiuntive a quelle del medico. Professor Remuzzi, andrei con lei a Roma, perché c'è Enzo che ci aspetta. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Enzo. Volevo sapere, siccome mia madre soffre di ipertensione, avendo insomma prende la pillola per la pressione, sì. Se era ereditario. Lei l'ha mai misurata, Enzo, la sua pressione? Non spesso. Non spesso, è stato molto diplomatico, non spesso. Professor Remuzzi, Enzo ha una mamma ipertesa. Sì, in linea di massima alla pressione alta contribuiscono due fattori, dei fattori genetici, cioè i geni che noi abbiamo che predispongono l'individuo ad avere la pressione alta eventualmente e le abitudini di vita e dove noi viviamo, come ci comportiamo, se fumiamo, se non fumiamo, se abbiamo un determinato regime alimentare che ci consente di avere un buon peso corporeo. Ecco, tutte queste cose concorrono, ma certamente c'è un'ereditarietà nella pressione alta, quindi chi ha genitori ipertesi deve provare la pressione, non si capisce bene se Enzo la prova o non la prova, ma insomma dovrebbe provarla. Dovrebbe provarla. E andiamo anche a Mirko, che ci chiama dalla provincia di Reggio Emilia. Mirko, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Mirko. Lei la misura, sì. La misura regolarmente la sua pressione? Sì, la misuro regolarmente perché appunto sono iperteso e effettivamente ho anche sia mia madre che mio padre che sono entrambi ipertesi. E io l'ho scoperta a 16 anni, adesso ho 36 anni, quindi è un po' che ce l'ho, e l'ho scoperta proprio perché iniziando a lavorare nella visita medica lavorativa me l'hanno scoperta e prima non... praticamente non avevo sentore di questa cosa, se non che il medico mi ha detto che i problemi che avevo prima, quindi avevo molti problemi di mal di testa continui, di sanguinamento del naso, eccetera, quindi le vene potevano essere legati a questi, ai valori, esatto, della pressione. E quindi infatti quando poi hanno scoperto l'ipertensione hanno iniziato a curarmi con, adesso tuttora prendo una pastiglia metà mattina e metà la sera e la pressione rimane nella norma. Prima avevo la minima che era 95. Professor Remuzzi, quindi Mirko l'ha scoperta da giovane e ha fatto bene ad andare dal medico e la sua pressione essere sotto controllo, perché lei ha anticipato che una pressione non controllata può provocare danni seri, voi li chiamate danni d'organo. Ma Mirko dice, il medico mi ha detto che alcuni dei problemi che avevo, sanguinamento, mal di testa, invece tanti dicono che l'ipertensione sia questo killer silenzioso perché non dà sintomi. Li dà o non li dà? Può darli, come il caso di Mirko abbiamo sentito, soprattutto può darli quando ci sono certi sbalzi di pressione, quindi quando la pressione si alza rapidamente durante la giornata, però molte volte la pressione non dà disturbi. Anzi, c'è un paradosso qui, le persone stanno più bene quando hanno la pressione alta, perché si abituano progressivamente, poi vanno dal medico, gli trova la pressione alta, gli dà il farmaco, diminuisce la pressione e cominciano ad avere disturbi. Certo. Quindi non è una buona regola passare dalla pressione alta al farmaco, ha accennato il professor Mancia prima. La bella notizia è che noi sappiamo curare la pressione alta. Qui abbiamo visto nel caso di Mirko, mi pare. Sì. Abbiamo visto che una persona con la pressione alta e quindi con determinati rischi nella sua vita torna coi farmaci a una pressione perfettamente normale. Questo è uno dei più grandi passi avanti della medicina. Noi riusciamo oggi ad avere meno infarti, meno trombosi del cervello, meno danni agli occhi perché sappiamo curare bene la pressione. Se avessimo fatto tanti passi avanti così nella cura dei tumori, oggi saremmo tutti molto più tranquilli. In realtà le malattie cardiovascolari si sono avvantaggiate soprattutto dall'avere questi straordinari farmaci per la pressione. Bisogna usarli al momento opportuno, perché tante persone possono anche normalizzare la propria pressione cambiando poche abitudini di vita. Non c'è bisogno di andare subito ai farmaci, ma quando uno è necessario che prenda i farmaci, poi li deve prendere sempre, li deve prendere regolarmente e deve assicurarsi che i farmaci siano efficaci. Molte persone però mi stanno scrivendo: prendo i farmaci ma la mia pressione non riesce a scendere, tante persone poi si accontentano oppure sospendono la terapia, insomma non tutte le persone sono ligie all'indicazione del medico, forse il medico non è sufficientemente chiaro, non dà le buone ragioni per affidarsi alla terapia. Ma prendo i farmaci, la pressione non scende, non va bene. La pressione deve scendere. Ci sono delle responsabilità di quello che prende i farmaci, cioè dell'ammalato, che delle volte prende i farmaci, però mangia in modo disordinato, non cala di peso, non fa nessuna attività fisica e fuma soprattutto. Abbassare la pressione in chi fuma è una partita persa. Se vogliamo normalizzare la pressione bisogna smettere di fumare, perché il fumo si associa sempre alla fine di una sigaretta, la pressione aumenta e rimane alta per 15-30 minuti, che quindi se dopo uno ne fuma un'altra non c'ha senso provare. Poi dopo, se uno fa invece tutto bene e la pressione non è a posto con i farmaci, allora ci vuole un dottore. Ci fermiamo. Uno che gli sappia dare i farmaci giusti. Ci fermiamo per i mercati. Siamo tornati insieme oggi, una puntata dedicata all'ipertensione. In linea con noi abbiamo il professor Mancia, in studio il professor Remuzzi. Professor Mancia, ho alcuni sms che voglio leggerli per cercare di dare ulteriori informazioni ai nostri ascoltatori. Che cosa significa la minima alta e la massima normale? Beh, è una forma più rara che colpisce soprattutto i giovani e che comporta comunque un incremento del rischio cardiovascolare. E anche in questo caso la regola è quella di cercare di normalizzare la pressione, in questo caso la minima, portandola almeno sotto i 90 mm di mercurio. Quindi è una sottoforma di ipertensione arteriosa, anch'essa ovviamente meritevole di terapia. Professore, è più difficile far scendere la minima o far scendere la massima? Così rispondiamo ad un altro ascoltatore. Decisamente la massima. Tutti quanti gli studi sono concordi sul fatto che se noi andiamo a vedere la percentuale di successo è molto minore per la massima che non per la minima. E anche quando guardiamo gli studi di efficacia di terapia antipertensiva nella popolazione generale e vediamo che la percentuale di controllo della minima è decisamente superiore a quella della massima. E questo perché l'incremento della pressione massima dipende dall'irrigidimento delle grandi arterie, il quale a sua volta è legato ad un'alterazione anatomica della parete delle grandi arterie, l'aorta, le carotidi, eccetera. Cioè queste arterie perdono la loro struttura elastica, diventano più rigide e ovviamente non è facile neppure con i buoni farmaci a cui faceva riferimento il professor Remuzzi riuscire in tutti i pazienti a ridurre la pressione arteriosa normalizzando in qualche modo la struttura della parete stessa. E in questo senso ovviamente sarebbe auspicabile che la ricerca in futuro ci desse ancora migliori farmaci che potessero far tornare indietro le alterazioni della struttura anatomica della parete delle arterie fino a che è possibile verso la normalità. Emilio ci chiama dalla provincia di Caserta. Buongiorno Emilio. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda. Io sono un forte fumatore, però la pressione diciamo è 140-150 solitamente. Sì. La minima intorno a 85-90. Devo preoccuparmi o devo ricorrere a qualche medicinale per contenerla? Io so già che il professor Mancia le dirà smetta di fumare. Sicuramente. Ecco. Ma cosa deve fare Emilio? A parte questo. Dunque, innanzitutto deve smettere di fumare, perché guardi, sul fumo si diceva un tempo che il fumo ha tutta una serie di effetti pericolosi, ed è vero, tranne uno, cioè i fumatori tendono ad avere la pressione più bassa. Ma come ricordava il professor Muzzi, questo è un artefatto della condizione in cui viene misurata la pressione. Se noi misuriamo la pressione in continuo, nell'arco delle 24 ore, proprio perché il fumo si associa ad un incremento di pressione che dura anche mezz'ora per ogni sigaretta, bene, i grandi fumatori, almeno durante il giorno, hanno pressioni ambulatorie superiori a quelle dei non fumatori. Quindi la prima cosa, anche ai fini di normalizzare la pressione, è quella di smettere di fumare. Poi se la pressione dovesse rimanere la massima sopra i 140, evidentemente bisogna cercare di ridurla. Allora in questo caso, trattandosi di un modesto incremento di pressione, a meno che il nostro paziente non abbia altri fattori di rischio, si può cominciare con una modifica dello stile di vita che faccia ridurre il peso corporeo, che aumenti l'attività fisica e poi, se questo non è sufficiente, arrivare magari iniziando con un solo farmaco, una terapia farmacologica. Professor Remuzzi, prima dei farmaci ritocchiamo lo stile di vita, ritocchiamo anche la nostra dieta, ma anche quelle aggiunte, quei pizzichi di sale che mettiamo nel corso mentre cuciniamo per insaporire i cibi. Il sale è nemico della nostra pressione. Sì, il sale fa aumentare la pressione. Qualcuno si chiede perché il sale fa aumentare la pressione. Ci sono scritti tantissimi libri. Una risposta semplice è non lo so. Una risposta un pochino più articolata è molte delle persone che hanno la pressione alta ereditano un difetto per cui il loro rene è meno bravo a eliminare il sale. Il nostro rene fa un lavoro meraviglioso ogni giorno di eliminare l'acqua in eccesso, di eliminare il sale, di eliminare tante altre cose che non ci servono. Quei reni lì, di quelli che hanno la pressione alta, non sono più capaci di eliminare il sale e allora bisogna mangiarne di meno. È uno sforzo che dovrebbero fare tutti. Anche le aziende. Il problema del sale è un problema di cultura, perché ci sono dei paesi dove la gente non è abituata a aggiungere sale, e quindi il sapore è una questione che ha molto a che fare con l'abitudine. Se uno si abitua a mangiare senza sale, pian pianino non ha problemi di gusto. Bisogna calcolare che i cibi conservati hanno tantissimo sale. Per esempio, i piselli in scatola contengono 3 volte più del sale che c'è nei piselli surgelati, per esempio. E i piselli conservati, siccome i piselli non è che ci sono sempre, la stagione dei piselli è un pochino breve, allora sì, tanti tendono. Ecco, lì bisogna fare attenzione. E poi noi con la cucina italiana abbiamo una grande fortuna, perché abbiamo tanti ingredienti che possono migliorare il gusto dei cibi: il basilico, il prezzemolo, il peperoncino, l'aglio, la cipolla, l'origano, la salvia, l'alloro. Tutte, insomma, le erbe, tantissime cose, certo. Per non parlare del limone, dell'aceto, insomma, tutte cose che non fanno male e che possono rendere i cibi molto saporiti indipendentemente dal sale. Quindi è uno sforzo che si dovrebbe proprio fare. Sin da quando i bambini sono piccoli, certo, e cercare di abituarli a non mangiare salato. Ci sono persone che si siedono a tavola e ancora prima di assaggiare la minestra, l'insalata o la verdura aggiungono un po' di sale. Questo è un errore. Bene, ma adesso lasciatemi salutare il mio cantautore preferito, e l'occasione di averlo qui me la offre il titolo di un suo CD che io ho amato particolarmente, che si chiama proprio Ipertensione. Raffigura in la copertina la mano di un giullare, mi ricordo, che tira la fune. E in linea con noi abbiamo il professor Roberto Vecchioni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come state? Io bene. Io penso che la mia pressione stia salendo un po', ma questi sbalzi, professor Remuzzi, sono assolutamente vantaggiosi, no? Quando uno si emoziona. Il CD è del 75, ma come mai lei, allora giovanissimo, sia chiaro, lo è anche oggi perché è un musicista, poi con la sua arte non ha età, ma come mai le è venuto in mente di dare quel titolo, Ipertensione? Ma credo perché era un po' metaforico, in realtà. E io soffrivo già allora di pressione alta. Ma il titolo sta a significare che comunque nella vita, nelle cose che fai, devi essere continuamente sotto tensione, devi avere adrenalina che corre da tutte le parti, va nelle mani, nelle braccia, nelle gambe, perché altrimenti se stai lì molle e floscio non ti viene fuori niente. Quindi nello stesso tempo l'ipertensione è un male e un bene. Lei adesso però sta facendo una scelta un po' fuori dal tempo, controcorrente. Ha deciso di rifugiarsi, direi, in un mondo fatto di silenzi, pause, spiritualità, il mondo di Incantus, che è proprio il titolo del suo ultimo CD. Adesso sono usciti degli studi interessanti che dicono che la musica, il ritmo della musica, interferisce positivamente anche sul ritmo del nostro cuore, anche sulla pressione, quindi anche questo sarà sicuramente un CD terapeutico. Beh, a me personalmente la musica ha fatto sempre bene, a me, qualsiasi musica abbia fatto, la cantautorale, la musica quando ho lavorato col jazz, e ora soprattutto che lavoro con la musica sinfonica e con un quintetto d'archi straordinario, meraviglioso, fatto tutto di primi violini, e vado in giro a portare questo spettacolo che viene dal disco, come ha detto lei, Incantus, è una riproposizione di autori classici famosi a cui ho messo le parole, perché non c'erano le parole, sinfonie di Rachmaninoff, di Tchaikovsky, e quindi mi sono prima di tutto divertito molto, e poi ho tentato di essere anche abbastanza riguardoso nei rispetti di questi geni naturali, ma soprattutto ho dato una bella sferzata di energia, di nuova energia alla mia vita. Senta, guardi, a proposito di energia, lei in un mese fa qualcosa, ho contato come 11 concerti. No, e qua 14, c'è 14, ecco, addirittura 3 in più. C'è da farsi salire la pressione. La sua pressione come va? La controlla? Sì, certo. Saluti... Io devo prendere assolutamente medicine tutti i giorni, il dottore saprà benissimo di che cosa si tratta, pastiglie, che è naturale, però il problema è un altro, il problema è che io quando la pressione si abbassa sto male, Vede. Questo è un altro problema notevole. L'aveva accennato il professor Remuzzi. Guardi che io ci tengo particolarmente a Roberto Vecchioni. Non è che possiamo fargli scendere la pressione che poi lui non fa più Roberto Vecchioni. Professor Remuzzi. Bisogna trovare un equilibrio. In realtà è vero quello che lui dice, questi ormoni, che poi non è detto che sia adrenalina, ci sono le endorfine, per esempio. C'è questo fatto che i chirurghi stanno 14 ore in sala operatoria e stanno benissimo grazie a questi ormoni, non sentono il dolore. Escono dalla sala operatoria, mi fa male qui, mi fa male là, sono giù di molare. Sì. Non hanno voglia di parlare, arrivano a casa con la moglie, sono silenziosi e le mogli si lamentano. Tanti miei amici sono così. Vero, diventano poi degli stracci. Quindi ci vuole un equilibrio. È molto importante la tensione, è molto importante perché ci fa fare tante cose belle. La pressione però è una cosa da tenere bene sotto controllo. E anche se uno ogni tanto non sta proprio bene perché c'è la bassa, averla bassa in qualche ora del giorno è una bella cosa. Allora, ecco, lasciamoci e intanto la seguiremo. Grazie al professor Roberto Vecchioni. Arrivederci. Buona musica e buona pressione. Siamo tornati insieme con Antonello da Terni. Buongiorno Antonello. Buongiorno Nicoletta e complimenti per la trasmissione. Grazie Antonello, ci racconti. Volevo chiedere questo. Ho 43 anni e fin da ragazzo ho fatto sport, anche se non professionalmente. Nel settembre scorso, quando ho effettuato la visita medica, mi è stata riscontrata una pressione leggermente alta, ovvero 80-140. E quindi effettuando la prova sotto sforzo, nelle fasi di sforzo intenso, la frequenza cardiaca arrivava intorno a 170 pulsazioni al minuto per rientrare relativamente nei ranghi. Sì. Tenga conto che da circa 35 anni effettuavo questa visita sportiva. Il medico mi ha prescritto di fare un controllo al cuore. Sì. Il controllo è stato comunque positivo, nel senso che gli elementi sono nei limiti, non vanno oltre. Mi è stato semplicemente detto che potrebbe essere un fatto di struttura fisica. Io sono alto circa 1,80 m per 95 kg di muscoli, la muscolatura molto sviluppata. Lei è tutto muscoli? Praticamente. Sì, probabilmente. No, senta Antonello, io le faccio rispondere dal professor Mancia. Professore. Lo sport tiene sotto controllo, vero? La pressione, sì, l'attività fisica la consigliate però, sempre. Però c'è una cosa che va detta qui, sì. Cioè la diagnosi di ipertensione arteriosa non si fa con la prova da sforzo. Per tutta una serie di ragioni, perché non ci sono dati di riferimento precisi su quali dovrebbero essere i valori di normalità per la prova da sforzo, la quale si associa sempre ad una componente incontrollabile e quantitativamente difficile da definire di stimolazione emotiva. E in secondo luogo, i valori di pressione misurabili durante lo sforzo sono estremamente imprecisi, la minima addirittura inaffidabile, la massima imprecisa. Quindi la prova da sforzo serve moltissimo ovviamente. Ma non per la pressione. Ma non per la pressione. Può dare un'informazione aggiuntiva, qualche cosa che può essere utile, ma non è la base di una diagnosi di ipertensione arteriosa. Io direi che in questo caso quello che andrebbe fatto è quello di verificare se questi 140-80 millimetri mercurio di valori pressori, che comunque non sono definibili come anormali, sono veramente una spia di qualche cosa che non è perfettamente desiderabile, e quindi per esempio procedere delle misurazioni in visite mediche ripetute o addirittura l'automisurazione da parte del paziente in condizioni di tranquillità, tenendo presente che c'è un momento ideale, professor Mancia, per misurarsi la pressione. I valori di normalità dell'automisurazione sono lievemente inferiori, non dovrebbero superare almeno i 135 mm di mercurio di massima. Roberto ci chiama da Ferrara, poi parliamo di donne, di ragazze giovani che prendono la pillola e di donne in gravidanza. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie tanto per la disponibilità. Io prendo la pastiglia perché sono iperteso regolarmente tutti i giorni, però adesso è un periodo anche abbastanza lungo che alla mattina, dato che me la misuro comunque anche a casa regolarmente, vedo che anche senza la pastiglia ho la pressione precisa. 80-120, 85... E quindi Roberto, chiedere... lei che dice? Butto via la pastiglietta. No, esatto. Volevo sapere eventualmente se devo continuare comunque con il dosaggio che sempre ho sempre preso o se devo fare qualcosa, qualche altro controllo. Magari. Professor Mancia, la tentazione è forte, ma lei che cosa mi dice? La tentazione esiste, però rendiamoci conto che se una... se viene presa una pastiglia regolarmente, la pressione controllata per mesi, beh, questo comporta una serie di conseguenze favorevoli, tra le quali anche il rimodellamento anatomico delle piccole arterie, sì, le quali sono ispessite quando c'è l'ipertensione e contribuiscono ad elevare i valori pressori, ma tendono a riportarsi verso la norma quando la pressione viene ridotta a lungo. Quindi il messaggio allora, è chiaro. Allora, quando uno sospende la terapia, la pressione non torna subito normale, elevata, così nell'arco di un giorno, due giorni. Ci mette un po'. Ecco, quindi il sospendere la terapia e vedere che nei giorni successivi la pressione rimane normale dà garanzie. Quindi meglio non abbandonarla. La pressione non tornerà elevata per effetto dei fattori che esistevano prima dell'inizio della terapia. Certo. Questo ovviamente assumendo che la diagnosi di ipertensione sia stata fatta correttamente. Professor Remuzzi, dedichiamo gli ultimi minuti della trasmissione alle ragazze giovani e alle donne che stanno aspettando un bambino. Che cosa dobbiamo dire e raccomandare? Beh, per le ragazze giovani c'è un rapporto tra pillola e pressione del sangue. La pressione è più alta nelle donne che prendono la pillola, soprattutto dopo i 35 anni. Se uno è iperteso, se una è ipertesa in questo caso, questo tipo di sistema anticoncezionale non andrebbe usato. Di solito anche le ragazze poi fumano, lei diceva il fumo e l'ipertensione, ecco, questo, e prendono la pillola, questa è una bomba. Questo è un enorme problema, sì, perché l'associazione tra pillola e fumo è davvero deleteria, è un'associazione che comporta dei rischi reali, c'è pericolo di avere delle trombosi per esempio, e questo è un problema che bisogna assolutamente evitare, quindi chi prende la pillola non deve fumare, deve provare la pressione e deve, assolutamente smettere di fumare. Poi la gravidanza. Questo è un problema complesso. Magari facciamo una trasmissione sulla gravidanza, le malattie renali, la gravidanza, l'ipertensione. Ipertensione e gravidanza sono due termini che si associano qualche volta, perché una donna può avere l'ipertensione prima della gravidanza. E allora ci sono tutte le cose che bisogna fare, perché avere la pressione alta durante la gravidanza può esporre i famosi organi bersaglio dell'ipertensione, quelli che sono danneggiati dall'ipertensione, a tutta una serie di rischi, e questo vale soprattutto per i reni. La gravidanza normalmente si associa a una riduzione dei valori della pressione arteriosa per tutta una serie di ragioni. Ci sono delle persone in cui la pressione non si abbassa, e questo è un problema soprattutto se avevano già la pressione alta prima. E bisogna indagare, bisogna capire perché, bisogna vedere se ci sono delle malattie renali, eccetera. Poi ci sono invece delle forme di pressione alta che arrivano dopo la 20ª settimana di gravidanza. Allora ci sono delle persone che incominciano a diventare le gambe un po' gonfie, che hanno delle piccole tracce di proteine nell'esame delle urine, queste proteine poi aumentano, si arriva a definire una cosa che ha un nome terribile, si chiama preeclampsia, è una cosa difficile persino da pronunciare, sì. Qualcuno lo chiama gestosi, vuol dire che c'è la pressione che si alza in gravidanza, e questo progredisce, può dar luogo a crisi convulsive, mettere a repentaglio il feto che non cresce. Alla fine la cosa più importante per guarire da questa malattia, che è proprio una malattia della gravidanza, è il parto, e bisogna però farlo quando il bambino è già sufficientemente sviluppato da poter vivere al di fuori di questo ambiente che è l'utero di una donna con preeclampsia o con gestosi, che per lui è diventato un ambiente sfavorevole. Quindi assolutamente controllo della pressione in gravidanza, occhio anche alle gambe gonfie, naturalmente il medico misura regolarmente la pressione alle donne in stato interessante, ma attenzione. Io ringrazio il professor Mancia per essere stato con noi e il professor Remuzzi, grazie davvero, buona giornata a voi e appuntamento a domani. Buona giornata.